Per quale motivo lei stamattina ha deciso di venire al mercato? Dunque, primo perché abito qua vicino, due perché devo comunque girare con lei. Ho detto stamattina andiamo a vedere cosa c'è al mercatino là, vengo ogni tanto, ma oggi ho comprato casualmente un pezzo di pizza, a volte non compro niente, vengo a vedere. Allora, in verità ho l'ufficio qua vicino, ma in genere ci vengo perché comunque vengo dai contadini direttamente e mi piace questa cosa. Ah beh, il motivo è semplice, perché qui c'è sempre roba buona. Io la frutta e la verdura non la compro più in supermercati o in altri posti. Preferisco prenderla qua perché è fresca, mi dura, poi c'è tutti i giovedì. È biologica, che è già una buona cosa, e poi hanno sempre roba fresca. Mi trovo molto bene. Io per fare un giro, vedere i prodotti, e poi se mi interessa qualcosa compro, niente di che. Voi abiti, cioè, io lavoro qui, lui abita qua, quindi... Diciamo perché la qualità si sente. Sicuramente. Cioè, la qualità si sente, c'è un rapporto anche poi culturale, nasce, no? Di interesse nel sapere, no? Da dove arriva questa roba che mangiamo, e ti dico che c'è differenza. E anche umano, tra, perché sì, comunque c'è la possibilità di parlare con... Il sapore del cibo, dei prodotti, può essere diverso da quello che magari è più industriale. C'è la sua differenza, quindi diventa un'abitudine che magari settimanalmente si viene qua a prendere quelle cose che a cui ci piacciono di più e si fa volentieri. E due chiacchiere, che due non chiacchiere. Bastano mai, perché i rapporti umani, esatto, per me... in primis, esatto, nonostante la situazione, però insomma, sì, la mascherina siamo abbastanza, e si dialoga, si parla lo stesso, sono abbastanza, quindi, castrato su quello. Speriamo che continui con questa esperienza, anzi che produca, che sortisca altri effetti, perché no, sul territorio. Ma al mercato taglio i costi e mi fido di più, perché sono in pensione dal 1 aprile e abito qua vicino e non ero riuscita a... ero venuta giovedì scorso e le streghe alla curcuma mi hanno chiamato stamattina. Perché da quando è aperto vengo tutti i giovedì. Lo preferisci al supermercato? Sì, perché qui posso prendere un pezzo o due pezzi invece di comprarne quattro. Cioè, c'è la scelta, c'è la qualità.